Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Genova, 24 gennaio 1979. Guido Rossa, un operaio dell'Italsider di Genova, sindacalista della CGIL, militante del PC. Sono le 6:30. Guido Rossa esce dal portone della sua abitazione. Quel giorno è impiegato al primo turno del mattino. Fuori è tutto buio. L'operaio dell'Italsider porta tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850 posteggiata in via Fracchia e via Ischia, dove si affaccia il portone di casa. Si volta indietro. Tutto sembra tranquillo, ma la normalità è solo apparente. I terroristi Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi lo raggiungono alle spalle, attendono che apra la portiera dell'auto. Alla fine, i brigatisti sparano numerosi colpi di pistola contro Guido Rossa. Un'esecuzione, un messaggio politico inviato dalle Brigate Rosse al Partito Comunista Italiano negli anni del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e nei mesi del dopo Moro. Il giornalista della RAI Ennio Remondino annuncia al telegiornale l'omicidio di Guido Rossa. Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Genova, membro del Consiglio di Fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregino. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsider, è stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi, i lavoratori hanno sospeso ogni attività. Guido Rossa viene ucciso nella Genova operaia della fine degli anni 70. Familiari, amici, investigatori lo troveranno disteso con le gambe sul sedile e la testa appoggiata al volante della sua Fiat 850. Poco dopo le Brigate Rosse telefonano al centralino del secolo XIX e rivendicano il suo assassinio. Ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Guido Rossa nasce a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, il primo dicembre del 1934. Un anno e mezzo dopo, la sua famiglia si trasferisce a Torino. A 14 anni entra nel mondo del lavoro. Da quel momento, Rossa è diviso tra la vita in fabbrica, l'impegno nel sindacato e la passione per l'alpinismo. In montagna conosce una ragazza genovese, Silvia, che diventa la sua compagna. Nel luglio 1961 si trasferisce a Genova. Trova impiego all'Oscar Sinigaglia di Cornigliano, reparto officina centrale, addetto alla manutenzione di strumenti di alta precisione. Nel 1967 si iscrive al PC, sezione Italsider. La direzione aziendale si trova di fronte a un interlocutore serio, preparato, duro, razionale ed equilibrato. Pierluigi Baglioni racconta a Gigi Donelli l'arrivo di Guido Rossa all'Italsider di Cornigliano. Guido Rossa l'ho conosciuto i primi anni 60 quando arrivò in fabbrica. Fu un po', come si potrebbe dire, una sorpresa per la fabbrica. Fu accolto con molta simpatia perché veniva dalla provincia di Belluno, paese di Cesio Maggiore, e venendo a Genova, paese di pescatori di mare, con tutta la sua bardatura di rocciatore, perché lui i primi tempi vestiva come vestiva il suo paese, aveva il maglione, i pantaloncini di velluto, quelli con la fibbia sotto il ginocchio, i calzettoni, gli scarponi, il cappellino da alpino. Poi circolò la voce che era appunto un democristiano, un cattolico, che era iscritto alla CISL. Guido Rossa rifiuta con estrema fermezza la politica della violenza. Si scontra con quelle avanguardie operaie che da tempo hanno scelto la strada della lotta armata. A Genova è attiva da almeno 4 anni la più efferata colonna delle Brigate Rosse. La colonna genovese nasce nel gennaio del 1975. La sua storia si snoda lungo il quinquennio successivo, fino alla sconfitta militare del 1980. Inizialmente è formata da pochi militanti regolari che si raccolgono intorno a Rocco Micaletto, braccio destro di Mario Moretti, giunto a Genova con l'incarico di assumere il comando della nascente organizzazione. I primi militanti sono Fulvia Miglietta, Riccardo Dura, Livio Baistrocchi e Francesco Lo Bianco. L'attività delle Brigate Rosse nel capoluogo ligure si snoda attraverso 4 passaggi fondamentali sul piano operativo. 18 aprile 1974. Le Brigate Rosse mettono in atto l'operazione Girasole. Viene rapito il procuratore genovese Mario Sossi, poi rilasciato il 23 maggio 1974, senza il pagamento di alcun riscatto. 8 giugno 1976. L'organizzazione terroristica uccide Francesco Coco, procuratore generale della Repubblica di Genova, l'agente di scorta Giovanni Saponara, l'autista del magistrato Antioco Deiana. 17 novembre 1977. Viene ferito in pieno centro l'ingegnere Carlo Castellano, dirigente dell'Ansaldo e membro del comitato regionale del PCI. 24 gennaio 1979. Viene programmato l'agguato mortale contro Guido Rossa. L'omicidio di Guido Rossa matura dunque all'interno dell'Ital Sider di Genova. Guido Rossa scorge il suo collega Francesco Berardi inserire dietro alle macchinette del caffè la risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Di quell'organizzazione Berardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica e chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia. È la prima volta che accade. Fino a quel momento i panni sporchi si devono lavare in casa propria, nel partito e nel sindacato. Ma Guido Rossa non è d'accordo. Contro il terrorismo, dice, bisogna andare fino in fondo e bisogna prendersi responsabilità politiche. La discussione nel sindacato dell'Ital Sider diviene pesante e persino offensiva. In molti chiedono a Guido Rossa di lasciare perdere, ma è in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le BR fossero una comune organizzazione dissenziente, e c'è chi sottovaluta la gravità di comportamenti diretti a fare proseliti nel terrorismo. L'amico di Guido Rossa, Pierluigi Baglioni, è presente in quel momento nella sede del sindacato dell'Ital Sider dopo il ritrovamento della risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Franco Berardi non aveva la notorietà né il carisma di Guido Rossa, però era conosciuto perché era un delegato sindacale, attivista sindacale, partecipava ai cortei, insomma, anzi un esagitato sindacale. Sa? Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui gli tirava fuori di lì e li seminava, tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, compagno conosciuto che là mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, no? Gli si disse poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, di fare una ramanzina, dargli una lavata di testa e tenerlo controllato, guardare, magari avvisare anche il partito, cioè lasciare la cosa, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica. Ma Guido Rossa vuole andare avanti e intende assumersi le sue responsabilità, come conferma Pierluigi Baglioni. Quando ci si accorge che nessuno voleva recedere dalla sua posizione, perché obiettivamente noi potevamo accettare la posizione di Guido Rossa, ma ci rendevamo conto che poi bisognava andare là, assumersi la responsabilità, e mica tutti avevano quel coraggio lì di farlo. Un po' si rifugiavano dietro la questione politica, un po' c'era di mezzo anche la paura, e non ci fu nessun compromesso, perché nemmeno Guido Rossa con i suoi gli davano ragione, perché avevano il fascino, questo esercitava un fascino verso gli operai. Gli altri compagni sarebbero stati d'accordo con noi, gli altri lo sostennero, e quindi ci si sciolse come consiglio di fabbrica, si sciolse col fatto che come istituzione consiglio di fabbrica nessuna posizione, ognuno agiva di sua spontanea volontà. I suoi compagni, quando lui li portò prima, una tappa prima fu dal capitano della vigilanza, cioè il capo di tutte le guardie interne, no? Del servizio d'ordine, delle postinerie, e fecero lì, loro cercarono questa via di dire vabbè, noi lo diciamo al capo della vigilanza, il quale sarà lui che... Il capo della vigilanza invece fece da Ponzio Pilato, si spaventò anche lui, disse ragazzi io non ci posso far nulla, è una questione, qui è grave, c'è di mezzo le Brigate Rosse, qui e là, a me cosa, andate dai carabinieri e denunciate. Rossa insieme al suo gruppo andò alla tenenza di Cornigliano dei carabinieri. La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale davanti ai carabinieri. Guido Rossa, la Francesco Maggiore, il 1 dicembre 1934, operaio. Dopo la pausa continua il racconto del giallo e nero su Guido Rossa.